2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, una nuova puntata di 2024, la prima puntata ufficiale del 2015. Benvenuti o bentornati, un buon anno anche da parte di Radio 24 e di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13 e le 13.30. Allora, vi anticipo che la prossima settimana saremo al Consumer Electronics Show, che si apre il 6 a Las Vegas. Si apre ufficialmente il 6 la fiera, ma già da domenica ci sono alcuni appuntamenti e quindi saremo già là a seguirli. Poi il lunedì una serie di anticipazioni di conferenze stampa e poi tutta la settimana dedicata a questa fiera, che è la fiera più importante al mondo per il mondo dell'elettronica di consumo. Vedremo quindi quali saranno le novità, i trend, i mega trend che verranno presentati. Iniziamo come sempre la nostra puntata con alcune notizie in breve della settimana. Non ci sono state tantissime notizie, ma alcune molto interessanti. Digital News. Grazie ad un accordo con Class Editori, Sky avrà un secondo canale sul digitale terrestre. Si tratta del canale 27, che si aggiunge a Cielo, che si trova attualmente al numero 26 della numerazione ufficiale, quindi 26 e 27 per Sky. Digital News. A proposito di TV digitale terrestre, il decreto mille proroghe sposta di 18 mesi l'obbligo di vendere in Italia televisori con decoder DVB-T2, cioè il ricevitore in grado di sintonizzare le trasmissioni con questo nuovo standard, che attualmente non usa nessuno, quindi nessun broadcaster utilizza questo tipo di tecnologia, che permette di, a parità di banda, di mettere più canali oppure sulla stessa banda di avere maggiore definizione, quindi potrebbero esserci canali in alta definizione sul digitale terrestre. Abbiamo espresso sempre molti dubbi sul fatto che verrà mai utilizzata questa tecnologia in Italia sul digitale terrestre, ma vedremo. In ogni caso, l'obbligo di vendere solo TV con questa tecnologia si sposta al 1 gennaio 2017, quindi anche le eventuali trasmissioni non le vedremo prima di 2 anni. È scattato dal 1 gennaio il nuovo regime di IVA europea che si applica ai beni digitali. Da ora si applicherà l'IVA del luogo di acquisto e non più quello del luogo di vendita. La stessa cosa che accade attualmente per i beni fisici, quindi se acquisto dall'Italia un software, un'applicazione, l'IVA su questo bene digitale sarà del 22%, a parte alcune eccezioni. Fino a pochi giorni fa non era così. L'antitrust italiano ha multato Samsung per pratica commerciale scorretta. Samsung dovrà pagare 1 milione di euro perché lo spazio sulla ROM interna degli smartphone commercializzati in Italia è in genere solo una frazione di quello dichiarato sul sito ufficiale dei prodotti e nelle pubblicità. L'autorità si è mossa in seguito a 2 segnalazioni ricevute da altrettanti utenti nel corso del 2014. Digital News. Quindi non è vero che poi le autorità non si muovono se i cittadini non fanno delle denunce. In questo caso, appunto, è stata multata una società per 1 milione di euro. Allora, fa notizia il finanziamento ricevuto dalla cinese Xiaomi. La società ha ricevuto 1,1 miliardi di dollari questa settimana, il che fa lievitare la valutazione dell'azienda a circa 45 miliardi di dollari. Xiaomi non è ancora quotata in borsa, ma viste queste notizie, vista l'euforia con cui è stata diffusa questa notizia, uno potrebbe pensare che si prepara uno sbarco futuro in borsa. Ricordiamo che Xiaomi vende solo online e la sua politica di prezzi bassa l'ha fatta diventare numero uno in Cina e terza nel mondo nella vendita degli smartphone. Va pure detto che fra i grandi produttori di smartphone Xiaomi è quella che copia forse di più, perché alcuni dei prodotti sono veramente copie soprattutto di smartphone e tablet di Apple. Adesso noi parliamo di NFC in un modo sicuramente molto originale. Saluto David Orban, bentornato David. David Orban è docente alla Singularity University negli Stati Uniti, advisor alla Singularity University. Benvenuto, bentornato 2024. Ciao Enrico. Oltre che essere docente ed essere advisor alla Singularity University, una istituzione che si occupa di futuro, sei anche amministratore di .sub, poi un giorno riparleremo delle tecnologie di riconoscimento di quello che succede all'interno di immagini video di .sub, ma oggi sei con noi per parlare di NFC. Questo è un nome che molti nostri ascoltatori hanno cominciato a sentire già da ormai da qualche anno, sicuramente in modo più diffuso da qualche mese. Ci sono vari servizi che sono attivi su tecnologia NFC, molti servizi di pagamento. Si è parlato di Apple Pay, questo sistema per pagare. NFC è una tecnologia di cui parleremo oggi e che sostanzialmente è stata introdotta in molti smartphone negli ultimi anni e permette di fare varie cose. Il pagamento in prossimità, appoggiando semplicemente lo smartphone su un terminale POS, un terminale che accetta pagamenti, è una delle tante cose che si possono fare. Allora, mi ha stupito quando tu mi hai detto guarda qui, indicando la mano e facendomi vedere una piccola ferita, perché tu qualche settimana fa hai fatto, non è un'operazione chirurgica, è una cosa molto più semplice, comunque ci sei fatto impiantare un NFC. Esattamente, ero ad Amsterdam proprio con Singularity University e durante il nostro summit è emersa la possibilità di fare questa cosa e Peter Diamandis, che è uno dei fondatori di Singularity University, Raymond McCauley, che segue gli aspetti di biologia e bioinformatica, io abbiamo approfittato di questo. Ci sono oggi al mondo pochissime persone che hanno questo impianto, che non è assolutamente regolamentato, garantito, è proprio un vero e proprio esperimento. L'impianto stesso, l'operazione di impianto è molto semplice, è un'iniezione di fatto, eseguito oggi in Europa da una sola persona, un certo Tom di Utrecht, che ha uno studio di piercing. Okay. E in effetti di mestiere fa quello di bucare il corpo umano in varie parti, e il posto migliore dove effettuare questo impianto è in effetti tra il pollice e l'indice, dove c'è del tessuto molle. L'impianto stesso è una capsula di vetro della dimensione di un chicco di riso e viene inserito con una semplice iniezione, con l'ago che è un po' più grosso di quello solito, sì, sotto la pelle. Quindi insomma un'operazione tutto sommato abbastanza semplice, non troppo invasiva, ma uno si chiede che cosa te ne fai di questo chip. È un chip NFC standard, non particolare, a parte il fatto che sia racchiuso in una capsula di vetro. E ci sono diversi aspetti del chip stesso. Una cosa molto importante che vale la pena per gli ascoltatori è che a differenza di una tecnologia precedente, tuttora esistente, chiamata RFID, riconoscimento radiofrequenza, che è un codice a barre elettronico contenente un numero seriale e basta, il chip NFC è attivo in termini di essere in grado di memorizzare diversi tipi di dati, di essere scritto, oltre che anche essere letto. È una circuiteria attiva che, con l'evoluzione dei computer, naturalmente porterà ad esserlo sempre più capace, sempre più potente. Un altro elemento fondamentale, per chi non lo sapesse, è che non è dotato di batteria. Sì. E la stessa interrogazione che fornisce l'energia necessaria per svegliare il circuito, dargli tutto quello che serve per rispondere. Sì. E sì, basta pochissima energia e il chip si anima, si attiva, e quindi solo in quel momento manda un segnale, scambia un segnale, tipicamente con uno smartphone. Cioè tu interagisci con col tuo chip nella mano, con lo smartphone o con qualche altro sistema, qualche lettore, qualche altro aggeggio. E in informatica si parla spesso di stack, di una filiera di tecnologie che deve interagire in modo molto adeguato e evolvere assieme. Lo stack software e hardware dell'NFC è ancora in evoluzione. Per esempio, Apple, pur avendo incorporato un chip NFC per lettura e scrittura all'interno degli ultimi modelli di iPhone, non dà ancora accesso a questa funzionalità ai programmatori. Sì. E quindi adesso io un po' goffamente mi porto due telefoni in tasca, un modello Samsung e cioè un Android, esatto. E con quello aperto ai programmatori posso installare le app che mi permettono di leggere e scrivere il chip nella mano. Ma che cosa ci fai? Ci sono tre classi di applicazioni oggi possibili. Di identificazione, e quindi per esempio far vedere al mio telefono che sono io. Invece di utilizzare l'impronta digitale o il PIN, o il PIN, esatto, io utilizzo la mano per sbloccare il telefono. Quindi semplicemente tu avvicini il telefono alla mano e il telefono o si sblocca oppure apre un'applicazione che richiede identificazione. Esattamente. Un'altra classe di applicazioni sono quelli di accesso e di sicurezza. Quindi laddove porte tornelli sono dotati di funzionalità NFC, io posso attestare la mia identità e poi accedere semplicemente facendo passare la mano. Ok. E la terza categoria di applicazioni che già oggi sono disponibili sono quelle transazionali, dove è associata un passaggio anche proprio di pagamento. Se per esempio il sistema della metropolitana milanese fosse aperto in questo senso, potrei passare nei tornelli con la mano. Sì, tu hai citato il sistema della metropolitana milanese, ce ne sono altri in Italia, non a caso, perché tutto il sistema, tutti i tornelli, i lettori sugli autobus, eccetera, sono già abilitati alla lettura e ci sono già dei servizi che possono essere utilizzati, ma con lo smartphone, non con la mano. In effetti io non pretendo che adesso tutto quanto venga adeguato a me, certo. Sono un po' in anticipo, se senti, vuoi. Problemi di sicurezza? Un mio amico, Eugene Kaspersky, dice sempre, sì. Ci sono tre criteri perché un sistema venga attaccato e potenzialmente abusato, che sia aperto, non proprietario, sì. Che sia documentato e che sia diffuso. I primi due criteri sono già verificati con NFC, e per lo meno relativamente a questi impianti il terzo criterio non lo è. Quindi è sicuro. Diciamo che io sicuramente non mi ritengo un target. Sì, ma diciamo nella prospettiva in cui questo sistema si diffondesse, magari non necessariamente impiantato nella mano ma in un braccialetto e quindi in modo anche molto economico venisse diffuso, cosa potrebbe succedere? È quasi garantito che ci saranno dei problemi. Difatti la complessità dei nostri sistemi è tale che chi si illude di aver fatto qualcosa che non può essere che non può contenere dei bug fuorviato e illuso, appunto. E quindi qual è l'atteggiamento necessario e utile? È quello di prevedere il fatto che i problemi ci saranno, minimizzarne le conseguenze e stabilire fin dall'inizio procedure per aggiornare i sistemi, diffondere le allerte, installare i patch. Per ridurre il rischio, diciamo. E quindi in quel momento che la documentazione online e la possibilità di analizzare la documentazione online diventa così importante, perché la probabilità che queste correzioni necessarie avvengano rapidamente è molto maggiore nel momento in cui si può contribuire da parte di tantissime persone, sì, invece che solo quelli che... Senti, possono. Tu non avresti potuto fare la stessa cosa, tu lo usi prevalentemente in questa prima fase per aprire o chiudere, per abilitare il tuo borsellino virtuale di Bitcoin, di questa moneta virtuale, giusto? O fai anche altre cose? È l'applicazione che ho adottato perché sono appassionato anche appunto di Bitcoin. Lì in particolare è molto delicato il fatto che i nostri riflessi naturali che abbiamo con la carta moneta o con le carte di credito non si applicano, perché ha una natura completamente diversa questa, sì, moneta elettronica, e quindi dobbiamo sviluppare nuovi meccanismi. Questo quindi è quello che ho scelto. Tengo la chiave privata del borsello di Bitcoin nell'impianto, in modo che il borsello online o software sul telefono non può essere utilizzato senza che qualcuno mi tagli la mano. Sì, esatto. Però non avresti potuto utilizzare, diciamo, riproducendo una comodità simile all'impronta digitale, visto che ormai ci sono anche smartphone che abilitano queste cose grazie all'impronta digitale. Allora, due risposte. Uno, specificamente, in quel caso io avrei dimostrato la mia identità, ma il dato della chiave privata sarebbe comunque rimasta da qualche parte, mentre oggi con l'impianto la chiave privata è fisicamente sull'impianto e da nessun'altra parte, e quindi questo rappresenta un grado maggiore di sicurezza. Ma il secondo aspetto, forse altrettanto importante, è che pur essendo questa soluzione oggi scomoda, è anche un'occasione per parlarne. Ah, quindi è scomoda? Beh, sicuramente è una... oltre all'operazione iniziale... Cioè, questo è scomodo di sicuro, sì. Oltre al disgusto che provoca in molte persone, oltre al fatto che appunto l'insieme di soluzioni hardware e software non è ancora ben integrato insieme, sì. Per dire un esempio, il chip permette che simultaneamente diverse applicazioni siano caricate, ma i telefoni oggi leggono solo il primo record e ignorano tutto il resto. Okay. È una stupidata, si potrà correggere velocemente, ma oggi il chip è più avanzato che non i telefoni stessi o i sistemi che vi accedono. Quindi, perché lo faccio? Proprio per dialogare su quelli che sono le possibilità, i limiti di questi sistemi, anche relativamente alla persona, in termini di privacy, in termini di identità, in termini di frontiere di interazione con la tecnologia, ma anche, sì, di ibridazione uomo-macchina, di come stiamo diventando cyborg. Sì, questo è un aspetto interessante, perché effettivamente noi da sempre, anche oggi, utilizziamo molta tecnologia anche impiantata, e in molti casi non ci stupiamo, come invece io stesso mi sono stupito quando tu mi hai detto: mi sono fatto questo impianto e mi sono messo questo chip dentro la mano. Secondo te, innanzitutto perché di fronte a tecnologie che noi utilizziamo, dalle più semplici, che ne so, l'apparecchio per i denti, il sistema per i sordi, per chi magari ha difficoltà a sentire e quindi viene impiantato un apparecchio nell'orecchio, oppure anche gli occhiali, cioè tecnologia per migliorare la nostra vita la utilizziamo. In questo caso invece c'è un po' di stupore, da tempo, insomma, quando si parla di chip sotto pelle ci sono, insomma, dibattiti sulla privacy. Allora, la frontiera, la distinzione tra quegli esempi che hai dato, un altro che aggiungerei, che è quello di un pacemaker, dove nessuno si sentirebbe di dirmi, se avessi il cuore, che ha bisogno di un pacemaker, no, piuttosto devi morire, non voglio che tu fai quell'impianto, rispetto appunto a questo del chip NFC sottocutaneo o ad altre possibilità che presto avremo, è che i primi esempi riportano la persona ad una condizione, diciamo, nella norma di qualcuno che ha perso delle capacità. Quindi sopperiscono ad una mancanza. Riparano il corpo. Sì. Mentre questo chip e ad altre cose che verranno estendono le capacità e portano quindi la persona a superare i propri limiti. e la comunità, la società umana che si interroga su queste cose, si sente in dovere di farsi delle domande di più e più profonde rispetto appunto all'estensione della capacità umana. Anche se, devo dirti, anche questo non è nuovo. Avevi fatto l'esempio degli occhiali. Gli occhiali per un miope sono necessari se non vede alla distanza normale. Ma non è che proibiamo l'uso dei binocoli. Ah, certo. Il binocolo estende la capacità della vista umana. Ed andando ancora più indietro nel tempo, 100.000 anni fa o quando che fosse, abbiamo deciso di usare il fuoco per predigerire il cibo al di fuori del nostro stomaco, dando al nostro cervello l'energia necessaria, che è un organismo abnorme, se guardi l'insieme degli animali. Il cervello umano assorbe il 30% dell'energia del corpo, pur essendo solo il 3% della massa del corpo. E attraverso questa scelta di utilizzare la tecnologia del fuoco abbiamo permesso al cervello di continuare a svilupparsi senza dover dedicare 20 ore al giorno al mangiare, così come fanno magari i gorilla nostri cugini. Esatto. Bene Davide, ti ringrazio. Sicuramente questo è un tema di cui riparleremo. Spero anche che ci siano conferenze su questi temi che sono molto utili per prepararci ad un futuro che arriva sempre più velocemente. Dico conferenze in Italia, soprattutto in Italia, perché poi nel mondo o alla Singularity University sicuramente di questo vi occupate e parlate. Con Singularity University Accelera, che è l'associazione degli ex studenti e simpatizzanti della Singularity University, sicuramente è un argomento che affronteremo volentieri. Bene, grazie e a presto. Grazie a te. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, la prima puntata del 2015. Come sempre succede all'inizio del nuovo anno, bisogna abituarsi anche scrivendo la data. 2015 a volte scappa invece l'anno precedente. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana in redazione. Potete raggiungerci anche attraverso i nostri profili Facebook oppure Twitter, anche il mio personale, su Twitter cercate Enrico Pagliarini. Dunque, a questo punto noi vogliamo parlare, perché è un tema che io giudico estremamente importante, di sicurezza informatica. Lo vogliamo così piazzare proprio all'inizio di questo 2015, anche per dire quanto è importante sensibilizzare aziende, pubblica amministrazione, cittadini, tutti noi su questo tema. Oltre alla fibra ottica, che è uno dei nostri cavalli di battaglia, una delle cose che riteniamo molto importanti, su cui dibattere, pensare, meditare, sicuramente la security è un tema di cui bisognerebbe parlare di più, non solo a 2024, lo facciamo molto spesso, ma all'interno di aziende, pubblica amministrazione e in generale, perché poi le cose succedono e ci accorgiamo e magari corriamo ai ripari quando le cose sono già accadute. Saluto l'ingegnere Paolo Lezzi, che è l'amministratore delegato di Maglan Europe. Benvenuto a 2024. Grazie mille. Lei si occupa di sicurezza a livello strategico, a livello internazionale. Mi dica subito se da questo punto di vista, visto che spesso ci mettiamo in confronto con gli altri paesi, nelle classifiche ci bacchettiamo perché siamo messi male in molte classifiche, in questo caso quando parliamo di sicurezza informatica? Ahimè, anche in questo caso l'Italia non è messa bene. Non brilliamo. Non brilla. È accompagnata da tanti altri, ma sicuramente non è ai primi posti. Che cosa sta succedendo? Perché noi parliamo di sicurezza informatica, in realtà poi bisognerebbe parlare in modo diverso, non solo di sicurezza informatica, di strategia della sicurezza, addirittura anche di legislazione che favorisca tutto questo. Che cosa sta succedendo nel mondo? Cioè, a suo parere e anche dal suo punto d'osservazione, dal suo punto di vista, quali sono le dinamiche, i pericoli, le minacce che molto più spesso voi notate, vedete, osservate sulla rete? Bisogna dire che in questo momento c'è una forte attenzione, non solo a livello di singolo Stato, ma a livello anche delle organizzazioni internazionali. Quello che viene definito il mondo cyber è considerato a tutti gli effetti un nuovo campo di battaglia. Quindi molte delle attività, anche diciamo di combattimento, vengono spostate dai mondi tradizionali a quello cyber. E quando parla di combattimento fa proprio riferimento alla guerra? Alla guerra, nel senso che si può avere dei problemi di sicurezza, delle rotture della sicurezza informatica di un'azienda o di uno Stato, ma noi sappiamo benissimo ormai che è possibile da un attacco cosiddetto cibernetico, ovvero via sistemi in qualche modo informatici, direttamente o indirettamente, è possibile ora scatenare gli effetti cosiddetti cinetici. Uso questa parola perché per chi insomma ha fatto fisica comprende cosa vuol dire, nel senso che da un effetto diciamo virtuale si arriva a un danno fisico, cioè si può ferire delle persone o distruggere qualcosa di fisico. Le faccio un esempio, se io ho una diga è controllata da un sistema di computer che regola tramite una serie di valvole il fatto che la diga rimanga piena fino a un certo livello. Se questa diga, se queste valvole vengono manomesse, non viene fermata e c'è la tracimazione della diga. Quindi si può facilmente immaginare le conseguenze. Se io ho dei semafori e li faccio diventare tutti contemporaneamente verdi, sapete cosa? Se altero la composizione chimica di un acquedotto, eccetera. Questi sistemi quindi sono collegati a internet, che da un certo punto di vista è drammatico. Questi sistemi non sono direttamente collegati a internet, sono soprattutto nati in un mondo in cui internet non esisteva neanche, ma sono interconnessi ora per permettere il telecontrollo, il controllo a distanza dei vari sistemi. Se io in qualche modo riesco ad accedere al sistema di controllo delle infrastrutture critiche, posso attaccare le infrastrutture critiche anche da internet. Quello che abbiamo commentato nelle ultime settimane, che ha ancora dei risvolti potremmo dire poco chiari, ma forse difficile avere un quadro molto chiaro in una situazione come quella che è successa in California o tra la California e altri paesi, e parliamo di Sony, della divisione cinema di Sony, della corporation giapponese. In questo caso lei dove piazzerebbe questo tipo di attacco? Nella cyber war, quindi è un pezzo di guerra digitale o è uno dei tanti episodi di, che ne so, cyber spionaggio, cyber terrorismo, eccetera, eccetera? Io non lo piazzerei a livello statale, cioè di guerra tra nazioni. A parte che Sony in questo contesto la vedrei più legata agli Stati Uniti che al Giappone ormai. Dalle informazioni di cui noi disponiamo, possiamo dire che è abbastanza difficile sostenere la tesi che sia stato un attacco determinato dalla Corea in quanto Stato. Primo per la modalità. Se questo fosse stato fatto nella modalità d'attacco statale della Nord Corea, tenete conto che la Nord Corea ha una divisione di 3.000 soldati cibernetici molto preparati che sanno il loro lavoro. Cioè ci sono 3.000 persone davanti a computer che fanno questo di mestiere. Esattamente, come la Cina mi sembra che siano 5-6.000 e sì, altri paesi anche diciamo della NATO qualcosa hanno, soprattutto i più grandi. Non avrebbero gestito in questo modo un attacco. Non avrebbero gestito in questo modo un attacco vuol dire che avrebbero avuto come obiettivo ben altre informazioni che non semplicemente quella relativa al film. Perché la Sony è coinvolta in molti progetti strategici per gli Stati Uniti, dal punto di vista di sistemi avanzatissimi di visione, di misura, di elaborazione visiva. Non certo questo. Questo attacco ha voluto, per semplificarlo, è stato un tentativo di entrare all'interno, raggiungere specificatamente quelle componenti ed estrarre delle informazioni. Ora, se fosse stato veramente mirato all'obiettivo del danneggiamento prodotto dal film, avrebbero cancellato tutto quello che trovavano. Non hanno fatto neanche questo, e avrebbero mantenuto una connessione aperta, cosa che non c'è, perché non è stata rilevata una connessione aperta. In più, se si vanno a vedere i log dell'attacco, non è così immediato determinare che sia stata la Nord Corea, stante il fatto che è sempre difficile determinare la reale fonte di un attacco. Esatto. Qui stiamo parlando di che si possono rilevare anche presenze di sistemi di altri provenienti da altri paesi, quindi non è ben definito il fatto che sia Nord Corea, e poi la modalità non è quella di un vero attacco statale. Se tra l'altro gli Stati Uniti si fossero stati veramente certi di una cosa del genere, sarebbero andati molto più a fondo di come sono andati, come tipo di attacco nei confronti tipo della di Nord Corea. Reazione, sì. E la Nord Corea non avrebbe detto venite e investigate con noi in questo modo. È vero che possono usare anche modalità indirette, è successo spesso che siano state coinvolte delle aziende minori o dei gruppi di hacker da parte di stati come questi, per pagando fior di quattrini per svolgere determinate attività sporche secondarie. Noi come Maglan recentemente abbiamo investigato un attacco su un'azienda internazionale basata nel Sud Corea, e abbiamo potuto rilevare che alla fine la vera origine era un'azienda indiana che poi è stata perseguita, e effettivamente quei signori hanno incontrato il mandante una volta sola, gli ha dato 5 milioni di dollari per fare il lavoro sporco. Non sapranno mai, non sanno neanche da dove arrivare. Senta, nella normale guerra, quella con i carri armati, gli aeroplani, eccetera, eccetera, solo gli stati possono avere la forza per reagire ad un altro stato. In questo caso, invece, la forza per fare un attacco che crea dei grossi problemi a una serie di aziende o addirittura appunto a infrastrutture critiche ad uno Stato, lo possono avere anche i privati? Assolutamente sì, purtroppo c'è un'attività continuativa da parte di organizzazioni internazionali criminali di spionaggio industriale. Una delle nostre attività principali è il contrasto allo spionaggio industriale computerizzato. Cosa avviene? Che non ci sono più i ragazzini hacker singoli che fanno le dimostrazioni. Sì, ci sono, ma non sono rilevanti. E spesso un grande attacco eclatante serve come copertura per un attacco sotto traccia. Il vero attacco di spionaggio industriale, quello che danneggia realmente, sono attacchi che sono determinati a raggiungere il cuore dell'azienda e far sì che si stabilisca una connessione nascosta, criptata, non rilevabile dai sistemi d'allarme dell'azienda, che continuamente partecipa alla nascita, evoluzione e manipolazione dell'informazione aziendale. Quindi non alla semplice, come dicevo prima, estrazione una tantum di un'informazione. Ora, al giorno d'oggi l'informazione evolve così tanto rapidamente che è inutile e di poca utilità avere un singolo documento, a meno che io non sappia che esattamente in quel momento c'è quel documento particolarmente strategico, ma potrebbe essere cambiato dopo 10 minuti. Quindi io devo stare seduto alla scrivania insieme all'azienda che io voglio attaccare. Quindi mi sta dicendo che un'organizzazione privata potrebbe, adesso l'abbiamo fatto l'esempio dell'azienda, però un'organizzazione privata potrebbe mettere sotto scacco un pezzo di Stato? Un pezzo di Stato, perché potrebbe, provate a pensare alle attività che fa Anonymous. Anonymous sostanzialmente coinvolge in qualche modo migliaia o decine di migliaia di persone di qualsiasi età che abbiano a disposizione mezzi informatici. E questa è la fase più ideologica, no? Gli activist cosiddetti. Sì. Ma se invece andiamo a pensare agli ex giovani hacker che adesso hanno 40, 50, 55 anni, hanno ben altre esigenze economiche, diventano mercenari a tutto spiano per le organizzazioni criminali. Quindi è possibile, sì, che dei privati abbiano questa capacità. Basta avere soldi, comprare militanti, mercenari, e dargli la disponibilità di attrezzatura. Non è un problema di tempo, perché se il mio obiettivo è avere il controllo di una certa multinazionale o di mettere a repentaglio un certo tipo di stato su certo tipo di informazioni, io posso avere anche un mese, due mesi di tempo per assicurarmi una connessione interna nascosta il più forte possibile, il più stabile possibile, che mi permette di accedere a tutte le informazioni di cui questi ho bisogno. Questi criminali informatici si trovano ovunque, anche in Italia? Anche in Italia, certamente. Anche in Italia. Noi siamo abituati a dire che i cattivi sono in Cina, in Russia, in Nord Corea, sì, in Iran. Sì. Sono solo alcuni, e molto spesso i server di quei paesi vengono usati per... Perché io devo usare un server cinese per attaccare il Sole 24 Ore? Perché molto probabilmente sarà difficile instaurare un'indagine internazionale di polizia. Primo, perché è difficile cooperare con quel tipo di polizie e con i grossi problemi di lingua che ci sono. Sì. Quindi diventa difficile, oppure basta che io vado dall'asilo di Haifa a quello di Hamas, e, sì, per dire, e non ho più la cooperazione a livello di polizia. Sì, quindi diciamo uso solo una infrastruttura informatica che sta dall'altra parte. Uso in maniera fraudolenta un'infrastruttura. Ci si può, cioè, a fine che punto ci si può difendere? Si può difendere con azioni preventive. Allora, se io faccio l'esempio della maggior parte delle aziende italiane, soprattutto quelle medio-grandi, hanno comprato ottimi hardware e software per la sicurezza. Peccato che il livello di configurazione è basso. Quindi io devo rivolgermi a quegli specialisti. È come avere la porta blindata, però non chiuderla sempre. Io posso avere l'ultimo livello, magari è chiusa, ma io ho l'ultimo livello di porta blindata, quella più bella di tutte, 40 strati. Sì. Ho una combinazione e lascio la combinazione standard 1, 2, 3, 4. Ho buttato via i miei soldi. Questo è il dramma delle aziende italiane. In più è grande un'azienda, più anche statisticamente la probabilità che ci sia una finestra aperta, una porticina aperta, cresce. E questo crea una situazione che è di fatto drammatica. È vero che ci sono molte aziende che stanno subendo un attacco, ma non lo sanno, non se ne stanno accorgendo. Questa è la realtà di oggi. Prima accennavo a questo tipo, come funziona un attacco di spionaggio industriale. Cioè sono attacchi non eclatanti, sono attacchi silenti, sotto traccia, sofficissimi, per sofficissimi, cioè una errata traduzione all'inglese, scusate. Sì, sì, molto tenui. Tenui, cioè non fanno rumore, quindi non c'è un grande traffico. È tutto fatto in maniera molto attenta e delicata, ma con un unico obiettivo: avere le informazioni vitali delle aziende. E normalmente i sistemi di difesa fanno fatica a rilevare questo tipo di attività. Chi si occupa di questo mestiere, come lei, come la sua azienda, si può accorgere dall'esterno di questo? Cioè potreste voi mettere sotto osservazione un'azienda e dire: guarda che ti stanno sniffando delle informazioni? Ci sono varie modalità, sicuramente c'è un'attività di intelligence che può coprire questo monitoraggio, che vuol dire andare a vedere se nella rete pubblica o nella rete underground, la famosa rete nera che non tutti conoscono, se ci sono delle informazioni aziendali. L'altra è il fatto che all'interno dell'azienda i sistemi eventuali di monitoraggio devono essere configurati nel modo giusto, e devono esserci degli umani attenti alla situazione, perché se io faccio scattare un allarme ma la mia diciamo guardia, per dire, si era addormentata in quel momento, non me ne accorgo. Devono esserci degli allarmi fatti a misura di quell'azienda e verificati nella loro efficacia. Cioè l'attività di simulazione continua di potenziali attacchi, non quelli che avvenivano un anno fa, come può essere spesso e volentieri se io faccio, diciamo, un test esattamente secondo gli standard internazionali approvati, quindi basati su tecniche consolidate, ma devo cercare di essere più avanti ancora della minaccia. Adesso facciamo una breve pausa, poi le farò una domanda su come si comporta Paolo Lezzi come cittadino davanti a un computer quando fa commercio elettronico, usa internet in generale. L'ultima parte della nostra puntata, anche questa puntata, sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, quindi vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente a questo servizio. In questo modo potete scaricare settimana dopo settimana o anche ascoltare in streaming via internet sul vostro computer, sul vostro smartphone, sul vostro tablet le puntate di 2024. Ci sono varie applicazioni per iOS e anche per Android, anche per Windows Phone, per gestire i podcast, molto interessanti, molto, molto belle, a partire da iTunes, poi TuneIn Radio per Android, ma insomma ce ne sono tantissime, quindi basta scrivere podcast e si trova molto. Oppure insomma andate sul nostro sito internet e anche da lì potete riascoltare 2024. Stiamo parlando di security, di sicurezza informatica con Paolo Lezzi, che è l'amministratore delegato di Maglan Europe. Dunque, Lezzi, adesso le faccio una domanda, vorrei sapere come si comporta lei come cittadino, non come amministratore delegato di un'azienda che si occupa di security, di strategie di sicurezza, di cose molto complesse, ma quando lei è davanti al computer come libero cittadino, come si comporta? Non è che fa come il dottore che dice che non si deve fumare e poi magari fuma. Allora, bisogna innanzitutto cambiare un po', diciamo, l'approccio. Noi siamo portati, soprattutto in Italia, ma generalmente in Europa, ad essere molto confidenti negli altri. Purtroppo esistono anche i cattivi e si sono diffusi. Nell'uso di questi mezzi, dove spesso volentieri non vedo chi ho di fronte, bisogna essere molto più accorti, perché innanzitutto se devo fare dell'e-commerce vado su siti e-commerce, diciamo, sufficientemente noti, e cercando di capire, guardando quello che posso vedere, se anche la lingua con cui sono scritti è corretta, se non sono, perché esistono i cosiddetti siti civetta, che sono delle copie finte sostanzialmente degli altri siti, per catturare identità, per poi rubare denaro e oggetti e informazioni. Quindi innanzitutto accertarmi di questo. Usare nei sistemi di pagamento solo quei siti dove è evidente che non è il sito che si prende la mia carta di credito, ma mi sposta, e questo per esempio sui siti italiani esiste da sempre per regolamento. Io vengo spostato su un sistema bancario che è tendenzialmente più sicuro e l'azienda venditrice non ha i miei dati di carta di credito. L'altra cosa è di utilizzare delle email che non siano l'email su cui normalmente io ricevo il mio estratto conto bancario o mie informazioni riservate. Usare magari un'email che uso per l'e-commerce. Sì, ci vuole 3 minuti adesso per creare un'email, usare un tipo di email di quel. Rilasciare il minor numero possibile di proprie informazioni. E soprattutto quando si guarda la propria posta, non aprire mai email che non siano di persone conosciute o... essere dove è facile sospettosi di essere molto sospettosi, soprattutto non aprire allegati. Non aprire allegati in maniera stupida. Questo è vero, però è probabilmente un problema di cultura, giusto? Si dice spesso. Assolutamente. Però noto che l'industria fornisca pochi strumenti per chi questa cultura non ce l'ha. Ad esempio, io da tempo sto cercando un sistema di posta elettronica tra virgolette sicuro, che io possa anche pagare come privato, però non è così facile trovarlo. Ci sono un sacco di strumenti gratuiti la cui sicurezza è relativamente bassa. Labile. Esatto. Sì. E questo è vero, anche questo sono pochi i provider che approcciano questo mercato, perché mettere in piedi un servizio di posta più sicuro ovviamente ha dei costi. La sensibilità del mercato italiano per comprare un servizio di questo tipo è bassa. E però quindi, forse anche, diciamo, europeo mondiale, non noto che ci siano molti servizi di questo genere. Ma perché diciamo sarà difficile vendere un servizio di massa sicuro. E in più ci sono delle diciamo conseguenze spinose dal punto di vista legale, nel senso che se io utilizzo l'email sicura ma il mio PC non è trattato in maniera sicura e mi sto collegando a una wifi pubblica non sicura, eccetera, sono tutta una serie di fattori che possono concorrere alla compromissione della mia comunicazione. E immediatamente partirebbe, per esempio negli Stati Uniti, un'azione legale o una class action. In 3 minuti quel provider è morto. Sì, certo, questo effettivamente è un problema. Ha citato il wifi. Se io tengo il wifi mio, beh, allora, se lo tengo aperto senza password, sa va san dir che tutti si possono collegare. Però se ho una buona password, lei viene vicino a casa mia e entra nella mia rete di casa. È un po' diverso. Allora, io è chiaro che se utilizzo le ultime, diciamo, le ultime versioni del wifi, è più sicuro e non è immediatamente attaccabile. Vero è che con una buona password, con una buona password 1, 2, 3, 4, no, con una buona password e poi con i livelli VPA2 eccetera, sì, quello che vedete, sì, sui router che adesso grazie a Dio vengono consegnati. La problematica è che se io veramente sono interessato a entrare in quella rete, cosa farò? Io tirerò su un hotspot wifi, quindi un emettitore di segnale wifi che ha lo stesso nome di quello che voglio attaccare, disturberò con un denial of service, quindi cercando di mettere fuori servizio anche solo per un minuto quello buono, e prendo le sembianze di quello prendo io le sembianze di quello buono con quello cattivo, e sarò quindi in grado di chiedere all'utente le sue credenziali per farlo entrare. In quel momento gli utenti che sono presenti in quella zona mi danno le loro credenziali. A quel punto io tengo le credenziali per poi entrare legittimamente dentro la rete. Questo protetta. Può succedere soprattutto però per wifi pubblici. Quello di casa mia, se mi chiede le credenziali, mi sospettisco un po', perché gliel'ho già date, quindi tutti i giorni mi collego senza problemi. Mi sospettisco, però ogni tanto succede. Dice che poi uno, succede che il PC le richieda per qualche motivo, si è perso. Sì, succede, sì. Non è la prima volta, succede. Senta, che cosa mi fa un brevissimo elenco di cose cattive che possono succedere se io sono un po' distratto nella posta elettronica, se sono un po' distratto mentre faccio e-commerce, cosa potrebbe succedere? Allora, una cosa, diciamo, tra virgolette, ormai banale purtroppo, ma che sta accadendo sempre più frequentemente, molti ascoltatori anche avranno avuto questo problema, è che andando su determinati siti, aprendo certe mail, uno si ritrovi la maggior parte dei file criptati, con qualcuno che chiede denaro in cambio della decriptazione. Sì. Questo purtroppo avviene per i privati e avviene per grossi server aziendali, andando dalle 100-200 euro alle 100-200 un milione di euro. Succede spesso. Noi ne abbiamo commentato anche qualche mese fa un caso abbastanza eclatante di una serie di alcune decine di comuni italiani, ma succede spesso anche tra privati o aziende? Certo, solo che le aziende tendono a non comunicare, non far sapere queste cose. E lì purtroppo diciamo che alla fine qualche soldo bisogna tirarlo fuori. La questione è che se uno non agisce in fretta e non si fa subito aiutare da chi conosce bene questi sistemi, rischia di non poter ripristinare più i dati, perché soprattutto quelli più sofisticati, cioè nei confronti delle aziende, l'attività di attacco comincia prima e comincia criptando, rendendo illeggibili i backup. Quando uno sa i backup, diciamo, non si fa tutti i giorni il backup pieno, si fa un pezzo di backup e alla fine di un mese io ho fatto tutto il backup, per banalizzare, per chi non comprende queste cose, la copia di riserva dei propri dati. Se io quindi ho annullato l'utilità di tutti i backup, dopo cripto, rendo illeggibile il database principale. A quel punto la prima cosa che fa l'azienda, prende e carica su il backup vecchio. Il backup, la copia precedente non funziona, prende quell'altra e così ha cancellato definitivamente tutto, non ha più niente. E succede? Succede. Spesso? In maniera interessante, diciamo. Mm. E anche in questo caso stiamo parlando di organizzazioni criminali che... Certamente, mentre quella consumer è più banale, cioè, nel senso che c'è un softwareino malevolo automatico e statisticamente ne prende un tot. E di questi tot, metà o tre quarti o un quarto, insomma, paga subito con carte di credito e tutto, e loro hanno raccolto i soldi. La certezza che nel momento in cui venga, diciamo, decriptato, cioè rimesso leggibile le proprie informazioni, questi se ne siano andati via completamente non c'è, finché non viene bonificato, per così dire, sì. Il PC. Le faccio ancora una domanda sulla nostra vita quotidiana digitale, poi una domanda sulle professionalità, che è molto importante. A proposito della nostra vita quotidiana, abbiamo raccontato alcune cose che possono succedere e alcune di queste cose, forse molte di queste cose, sono dovute ai nostri comportamenti. Un buon, lo dico, antivirus per semplificare, in realtà oggi si chiamano suite di sicurezza, pacchetti security, così, è sufficiente o mica tanto? Assolutamente no. Allora, come funziona un antivirus? Ha dentro il database una serie di virus conosciuti. Sì. Certo, non posso dire che non serve a niente, perché se viene fatto circolare a livello, diciamo, a livello consumer un vecchio virus, un tot di persone vengono colpite. Cioè, vuol dire, se io scrivo un virus nuovo questa mattina o domattina... Quelli che vengono chiamati zero day, forse sì, sì, giorno sì. Zero. Un vero attacco serio non è fatto con un vecchio virus. Quindi ci sta dicendo che è buona parte della sicurezza a casa nostra, in ufficio, è comportamento nostro, cultura digitale, attenzione, sì, io procedure. Dico anche che sì, che è un misto di sicurezza fisica e sicurezza logica, tant'è che quello che noi consigliamo adesso anche soprattutto alle aziende o alle istituzioni non è più solo la simulazione di attacco, il penetration test, diciamo, solamente nell'ambiente logico, ma anche dal fisico al logico. Io posso avere decine e decine di telecamere di sicurezza, eccetera, ma come si vede nel film Ocean's 11 o 13, 14, sì. È evidente che io posso anche far vedere qualcosa che non è al sistema, posso intaccare fisicamente il sistema di sicurezza. Quindi, e se la componente umana fa ancora tantissimo. Di fatto io vengo attirato tramite un'attività che viene definita di social engineering o ingegneria sociale, ma viene brutto, di social engineering, vengo convinto a fare qualcosa, vengo convinto ad aprire un'email, facendomi credere, quindi sfrutto il comportamento umano. In Europa come siamo messi? Cioè, quali sono gli stati più attenti alla sicurezza? E chiaramente tedeschi, gli inglesi, scandinavi. Molto? Sono molto più avanti, sì. Tedeschi in assoluto, perché, ma per l'attenzione procedurale che hanno sempre, in maniera puntuale, non lasciano per. Noi siamo più abituati spesso a trovare che dopo la manutenzione è stata lasciata aperta una finestra. In Germania non può accadere che uno dopo una manutenzione lascia aperta una finestra, è proprio questione di mentalità. Certo che noi abbiamo una creatività molto sviluppata, come si sa, quindi impostate in modo adeguato si possono ottenere degli esperti di sicurezza o capaci di fare indagini sugli incidenti molto più creative di altri paesi. Però insomma, il nostro stato attuale purtroppo è un po' vulnerabile. Dobbiamo migliorare. Bene, grazie a Paolo Lezzi per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi. E anche un buon anno, visto buon che anno. Buon anno. Visto che l'anno è appena iniziato, da tutti noi l'augurio di un buon 2015. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, per l'ascolto, ci trovate il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica tra le 13 e le 13.30, oppure sempre sul nostro sito internet in podcast. Torniamo la prossima settimana realizzeremo una puntata speciale di 2024 da Las Vegas, dove tra pochi giorni si apre il Consumer Electronics Show, ufficialmente dal 6 al 9, ma anche prima ci sono già alcune anteprime. Comunque faremo un po' il punto della situazione sulle novità principali che vedremo nel corso del 2015, che vengono presentate al CES, Consumer Electronics Show. L'augurio di una buona serata e appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 2024.